22esima traccia. Mi piacerebbe che si potesse sapere, disse Mrs. Weston, quale disposizione sarebbe più gradita ai nostri ospiti in genere. Far quello che sarebbe più universalmente accetto deve essere il nostro fine, se solo potessimo dire che cosa. Già, verissimo, esclamò Frank, verissimo. Desiderate l'opinione dei vostri vicini. Non mi stupite. Se ci si potesse accertare di quel che i principali tra essi, Cole per esempio, non abitano lontano, devo recarmi da loro o da Miss Beth? Lei è ancora più vicina. E non so se Miss Beth non sia in grado, meglio di qualunque altro, di capire le tendenze del resto degli invitati. Credo che dobbiamo allargare il concilio. Se andassi a invitare Miss Beth a unirsi a noi? Ebbene, se vuoi, disse Mrs. Weston con qualche esitazione, se credi che possa essere utile. Non caverete nulla di pratico da Miss Beth, disse Emma. Essa sarà tutta letizia e gratitudine, ma non vi dirà niente. Non starà neppure a sentire le vostre domande. Non vedo vantaggio alcuno di consultare Miss Beth. Ma è così divertente, così immensamente divertente. Mi piace moltissimo sentire Miss Beth discorrere. E non c'è bisogno che io porti tutta la famiglia, sapete. A questo punto Mr. Weston si unì a loro e sentendo quel che veniva proposto gli diede la sua decisa approvazione. Sì, fallo, Frank, vai a prendere Miss Beth e definiamo la faccenda subito. L'idea la riempirà di gioia, ne son certo, e io non conosco persona più adatta per mostrarci come superare le difficoltà. Vai a prendere Miss Beth. Stiamo diventando un po' troppo meticolosi. Essa è una costante lezione sul modo d'essere felici. Ma vai a prenderle entrambe, invita entrambe. Entrambe, babbo? Può la vecchia signora? La vecchia signora, ma no, la signorina naturalmente. Ti stimerò un gran zuccone, Frank, se conduci la zia senza la nipote. Oh, ti chiedo scusa, babbo, lì per lì non mi ricordavo. Certo, se tu lo desideri, cercherò di persuaderle tutte e due, e corse via. Molto tempo prima che egli ricomparisse, accompagnando la bassa, linda, vivace zia e la sua elegante nipote, Mrs. Weston, da quella donna mite e buona moglie che era, aveva riesaminato il corridoio e ne aveva trovato gli svantaggi molto minori di quanto avesse supposto prima. Anzi, addirittura insignificanti, e qui ebbero fine le difficoltà della decisione. Tutto il resto, almeno in via d'ipotesi, era perfettamente liscio. Tutte le disposizioni minori circa la tavola e le sedie, i lumi e la musica, il tè e la cena andarono da sé, o furono lasciate come semplici minuzie che Mrs. Weston e Mrs. Stowe potevano sistemare in qualsiasi momento. Tutti quelli che venivano invitati sicuramente sarebbero venuti. Frank aveva già scritto a Enscombe per proporre di rimanere alcuni giorni oltre la quindicina, e ciò non poteva in alcun modo essere rifiutato, e sarebbe stato un ballo delizioso. Miss Beth, quando arrivò, fu molto cordialmente d'accordo su questo. Non c'era bisogno di lei in qualità di consigliera, ma come approvatrice, figura assai meno rischiosa, fu davvero benvenuta. La sua approvazione, insieme generale e particolare fino alle minuzie, calorosa e incessante, non poteva non piacere. E per un'altra mezz'ora tutti rimasero a passeggiare avanti e indietro tra le varie stanze. Alcuni a suggerire, altri a fare attenzione e tutti a pregustare con gioia il futuro. La compagnia non si sciolse senza che Emma venisse prima positivamente impegnata per le prime due danze dall'eroe della sera, né senza che lei udisse Mr. Weston sussurrare alla moglie. «L'ha invitata, mia cara, ottimamente, sapevo che l'avrebbe fatto». solo una cosa mancava per rendere la prospettiva del ballo del tutto soddisfacente per Emma. Che venisse fissato per un giorno entro il periodo in cui era concesso a Franciocci di rimanere nel Sarli, poiché, nonostante la fiducia di Mr. Weston, essa non riteneva assolutamente impossibile che i Churchill non permettessero al loro nipote di restare un sol giorno oltre la quindicina. Ma ciò non fu giudicato attuabile. I preparativi dovevano prendere il loro tempo, nulla poteva essere convenientemente pronto prima che si iniziasse la terza settimana, e per alcuni giorni essi dovettero progettare, perseverare e sperare nell'incertezza, col rischio, il gran rischio, a opinione di Emma, che tutto fosse invano. Enscombe, tuttavia, fu condiscendente a fatti, se non a parole. Il desiderio di Frank di rimanere più a lungo evidentemente non piacque, ma non venne ostacolato. Tutto dunque andava a gonfie vele, ma siccome di solito una preoccupazione non s'allontana che per far posto a un'altra, Emma, sicura adesso del ballo, cominciò ad adottare, come successiva contrarietà, l'irritante indifferenza di Mr. Knightley circa la festa. O perché non ballava lui stesso, o perché il progetto era stato formato senza consultar lui, sembrava deciso a non provarci interesse, risoluto a negare al ballo ogni virtù di stimolare la sua curiosità presente o di offrirgli qualunque divertimento futuro. Alle proprie spontanee comunicazioni Emma non poté ricevere risposta più entusiastica di «Benissimo, se i Weston credono che valga la pena di darsi tutto questo grande affare per poche ore di rumoroso divertimento, io non ho nulla in contrario, ma che non siano loro a scegliere i piaceri che fanno per me. Oh sì, io ci dovrò essere, non potrei rifiutare, e cercherò di rimanere desto quanto potrò. Ma mi piacerebbe di più restare a casa, a rivedere i conti della settimana di William Larkins, molto di più, vi confesso. Piacere a veder ballare? Io no davvero, non sto a guardare, non so chi ce lo provi. La bella danza, come la virtù, credo che debba essere premio a se stessa. Gli astanti, di solito, pensano a qualcosa di tutto diverso. Emma sentì che questa era una frecciata diretta a lei, e se ne adirò assai. Tuttavia, non era in omaggio a Jane Fairfax che egli si dimostrava così indifferente o indignato. Non era guidato dai sentimenti di lei nel disapprovare il ballo, poiché l'idea di esso aveva riempito di straordinaria gioia Jane Fairfax. L'aveva resa animata, espansiva. Aveva detto spontaneamente: «Oh, Miss Woodhouse, spero che non accada niente che impedisca il ballo. Sarebbe un tal disappunto. Aspetto quel giorno, vi confesso, con immenso piacere». Non era dunque per fare un favore a Jane Fairfax che Mr. Knightley avrebbe preferito la compagnia di William Larkins. No, era sempre più convinta che Mrs. Weston si sbagliava di grosso nella sua supposizione. Da parte di lui c'era un bel po' d'attaccamento amichevole e compassionevole, ma niente affatto amore. Ahimè, ben presto non ci fu agio di bisticciarsi con Mr. Knightley. Due giorni di lieta certezza furono seguiti dalla rovina d'ogni cosa. Arrivò una lettera di Mr. Churchill che sollecitava il ritorno immediato del nipote. Mrs. Churchill stava male, troppo male per poter fare senza di lui. Era molto sofferente, così diceva suo marito, quando aveva scritto al nipote due giorni innanzi, sebbene per la sua solita avversione a posare affanno e per la sua costante abitudine di non pensare mai a se stessa, non ne avesse fatto parola. Ma adesso stava troppo male per prendere la cosa alla leggera, ed egli doveva pregarlo di partire per Enscombe senza indugio. Il contenuto di questa lettera fu immediatamente comunicato a Emma in una missiva di Mrs. Weston. Che egli dovesse partire era inevitabile. doveva partire tra poche ore, sebbene realmente non sentisse per la salute della zia alcuna reale ansia atta a diminuire la sua avversione. Conosceva le sue malattie, non capitavano altro che quando le facevano comodo. Mrs. Weston aggiungeva che egli poteva appena concedersi il tempo di precipitarsi a Highbury dopo colazione e congedarsi dai pochi amici di lì, che egli poteva supporre che provassero simpatia per lui, e che poteva essere atteso a Arthur prestissimo. Questa missiva desolata fu il finale della colazione di Emma. Una volta lettala, non c'era altro da fare che lamentarsi e imprecare. La perdita del ballo, la perdita del giovanotto e tutto quel che il giovanotto poteva provare. Era troppo desolante e avrebbe potuto essere una serata così deliziosa. E ognuno sarebbe stato così felice e più felice di tutti lei e il suo compagno. Ma io l'avevo detto, era la sola consolazione. Ben diversa fu la reazione di suo padre. Principalmente gli interessava la malattia di Mrs. Churchill e voleva sapere com'era curata. E quanto al ballo, era una pena che la cara Emma rimanesse delusa, ma tutti sarebbero stati più sicuri a casa. Emma era pronta per il suo visitatore qualche tempo prima che egli comparisse. Ma semmai questo screditava l'impazienza di lui. La sua aria addolorata e il suo totale abbattimento, quando egli arrivò, poterono redimerlo. Egli sentiva questa partenza a tal segno da non trovare parole. La sua prostrazione era evidentissima. Il primo momento rimase seduto con un'aria smarrita, e quando si riscosse fu solo per dire: «Di tutte le cose orribili, il prendere congedo è la peggiore». «Ma tornerete di nuovo», disse Emma. «Questa non sarà mica la vostra sola visita, Randolph». «Ah», scuotendo la testa, «l'incertezza di quando mi riuscirà di tornare. Cercherò di tutto per riuscirci. Sarà lo scopo di tutti i miei pensieri e di tutte le mie cure. E se mio zio e mia zia vanno a Londra questa primavera, ma ho paura, la primavera scorsa non si mossero». Ho paura che sia un'abitudine che hanno perduto per sempre. Bisogna proprio rinunziare al nostro povero ballo. Ah, quel ballo! Perché abbiamo atteso? Perché non abbiamo afferrato subito il piacere? Quanto spesso la felicità è distrutta dalla preparazione, dalla sciocca preparazione. Voi ci diceste che sarebbe stato così. Oh, Miss Woodhouse, perché avete sempre tanta ragione? Davvero mi dispiace d'aver avuto ragione in questo caso. Mi sarebbe piaciuto moltissimo di essere più allegra che prudente. Se posso tornare di nuovo, avremo ancora il nostro ballo. Mio padre ci conta. Non dimenticate il vostro impegno. Emma dette uno sguardo pieno di benevolenza. Che quindicina è stata! Egli continuò. Ogni giorno più prezioso e più delizioso del precedente. Ogni giorno tale da rendermi meno capace di tollerare ogni altro posto. Felici coloro che possono rimanere Highbury. Dal momento che ora ci rendetesi ampia giustizia, disse Emma ridendo, mi azzarderò a chiedere se da principio non siete venuto con qualche esitazione. Non superiamo un po' le vostre aspettative? Sono sicura di sì. Sono sicura che non vi attendevate molto, che vi saremmo piaciuti. Non ci avreste messo tanto a venire, se aveste avuto un'idea piacevole di Highbury. Egli rise, con l'aria di chi è consapevole, e benché negasse tal sentimento, Emma si convinse che era stato proprio così. «E dovete partire addirittura stamattina?» «Sì». Mio padre verrà qui a prendermi. Torneremo a casa a piedi. Poi partirò immediatamente. Ho paura che egli compaia da un momento all'altro. Non vi avanzano neanche 5 minuti per le vostre amiche Miss Fairfax e Miss Death? Che peccato! L'animo robusto, raziocinativo di Miss Death avrebbe potuto rinforzare il vostro. Sì, ho già fatto la mia visita là. Passando dinanzi alla porta ho pensato che fosse meglio. Era una cosa da fare. Sono entrato per 5 minuti. E sono stato trattenuto per il fatto che Miss Bates era assente. Era fuori. E ho sentito che era impossibile non aspettare che rientrasse. È una donna di cui si può, si deve ridere, ma a cui non si desidererebbe di fare un affronto. Era meglio fare la mia visita. Poi esitò, si alzò, andò verso una finestra. Insomma, disse, forse, Miss Woodhouse, mi immagino che è difficile che voi siate sempre sospetto. La guardò come se volesse leggere i suoi pensieri. Essa non sapeva che dire. Sembrava il preavviso di qualcosa d'assolutamente serio, che essa non desiderava. Perciò, sforzandosi di parlare, nella speranza di passarci sopra, disse, calma, calma. Avete fatto benissimo. È naturalissimo che abbiate fatto la vostra visita. Poi, egli tacque. Essa credette che la guardasse. Probabilmente rifletteva ciò che aveva detto lei e cercava di capire la maniera. Essa lo udì sospirare. Era naturale che egli sentisse d'aver ragione di sospirare. Egli non poteva credere che lei l'incoraggiasse. Passarono alcuni momenti di imbarazzo e lui si sedette di nuovo e in modo più deciso disse: «È stato qualcosa sentire che tutto il tempo che mi rimaneva avrebbe potuto essere dedicato a Arthur. Per Arthur io nutro i più caldi sensi...» Si fermò di nuovo. Di nuovo si levò in piedi e parve molto imbarazzato. Era innamorato di lei più di quanto Emma non avesse supposto. E chissà come sarebbe potuto finire se non fosse comparsa il padre di lui. Presto seguì Mr. Woodhouse e la necessità di darsi da fare fece sì che egli si ricompose. In pochi altri minuti, tuttavia, ebbe fine quel penoso incontro. Mr. Weston, sempre alacre quando c'era da far qualcosa e tanto incapace di procrastinare un malanno inevitabile quanto di prevederne uno dubbio, disse che era tempo d'andare. Il giovanotto, per quanto potesse sospirare e sospirasse forte, non poté non annuire e non alzarsi per prendere congedo. «Avrò notizie di voi tutti», disse. «Questa è la mia principale consolazione. Saprò ogni cosa che accade tra voi. Ho chiesto a Mrs. Weston di scrivermi. Essa è stata tanto gentile da promettermelo. Oh, che fortuna d'avere una corrispondente quando si ha davvero interesse per chi è lontano. Essa mi dirà tutto. Leggendo le sue lettere mi parrà d'essere di nuovo nella cara Ivory. Una cordialissima stretta di mano e un addio molto caloroso posero fine al discorso e in un momento la porta si chiuse dietro a Frank Churchill. Breve era stato il preavviso, breve il loro incontro. Ecco, egli era partito, ed Emma si sentì così dolente della separazione e previde che l'assenza di lui, una tal perdita per il piccolo circolo delle loro amicizie, che cominciò a temere d'essere troppo dolente e di sentir troppo quell'assenza. Fu un triste mutamento. Da quando egli era giunto, si erano incontrati quasi ogni giorno. Certo, la sua presenza a Randalls aveva conferito una grande animazione alle ultime 2 settimane, un'animazione indescrivibile. L'idea, l'attesa di vederlo che ogni mattina aveva recato, la certezza delle sue premure, la sua vivacità, i suoi modi. Erano state 2 settimane di felicità e doveva essere desolante il ricadere nella monotonia della solita vita di Arthur. Per completare i titoli che aveva al favore di lei, egli le aveva quasi detto di amarla. Di che forza o di costanza d'affetto egli fosse capace era un altro punto, ma per il momento essa non poteva dubitare che egli non sentisse un'ammirazione assai calda, una conscia preferenza per lei, e questa persuasione, unita a tutto il resto, la faceva pensare di dover essere un po' innamorata lei pure, a dispetto d'ogni precedente decisione in contrario. «Certo, deve essere così», disse lei. «Questa sensazione di svogliatezza, di stanchezza, di stupidità, questa avversione a star seduta e a occuparmi di qualcosa, questo sentimento che ogni cosa intorno è noiosa e insipida. Devo essere innamorata. Sarei la più strana creatura del mondo se non lo fossi, almeno per queste settimane. Ebbene, il male di alcuni è sempre un bene per altri. Avrò parecchi a lamentarsi con me per il ballo, se non per Frank Churchill. Ma Mr. Martin sarà felice. Ora potrà passare la serata col suo caro William Larkin, se gli piace». Tuttavia, Mr. Knightley non mostrò alcuna esultanza. Non poteva dire che gli dispiaceva per parte sua. La sua aria gaia l'avrebbe contraddetto se l'avesse fatto. Ma disse, e molto fermamente, che gli dispiaceva per il disappunto degli altri, e con notevole gentilezza soggiunse: «Emma, voi avete così poche occasioni di ballare, proprio avete sfortuna. Avete una sfortuna terribile». Passarono alcuni giorni prima che rivedesse Jane Fairfax, per giudicare del suo sincero rammarico per questo penoso cambiamento. Ma quando si incontrarono, la sua calma era odiosa. Tuttavia, essa era stata assai indisposta, soffrendo di mal di capo al punto di far dichiarare alla zia che se il ballo avesse avuto luogo, non credeva che Jane avrebbe potuto parteciparvi. Ed era caritatevole imputare al languore della sua cattiva salute un po' della sua disdicevole indifferenza. Emma continuò a non aver dubbi d'essere innamorata. Le sue idee variavano solo sul quanto. Da principio credette che fosse parecchio, in seguito solo un poco. Le faceva un gran piacere di sentir parlare di Frank Churchill, e per via di lui provava più piacere che mai a vedere Mr. e Mrs. Weston. Molto spesso pensava a lui e aspettava con impazienza che egli scrivesse per sapere come stava, di che umore era, come stava la zia e che probabilità c'erano che egli tornasse a Randalls quella primavera. Ma d'altronde non poteva ammettere d'essere infelice e, passata la prima mattina, d'essere meno disposta del solito a far qualcosa. Era molto affaccendata e allegra, e, pur piacente come egli era, essa poteva immaginare che avesse dei difetti. E inoltre, sebbene pensasse tanto a lui e, mentre sedeva a disegnare o a lavorare, concepisse mille divertenti progetti per il progresso e la fine del loro attaccamento, immaginando interessanti dialoghi e inventando eleganti lettere, la conclusione di ogni immaginaria dichiarazione da parte di lui era che essa lo rifiutava. Il loro affetto doveva in ogni caso placarsi in amicizia. Ogni cosa tenera e incantevole doveva distinguere la loro separazione, ma separarsi dovevano. Quando essa si rese conto di ciò, s'accorse che non poteva essere molto innamorata, perché, malgrado la sua anteriore e irremovibile decisione di non abbandonare mai il padre e di non sposarsi mai, un forte affetto, certo, doveva produrre più contrasto di quanto poteva prevedere nei propri sentimenti. «Trovo che non faccio alcun uso della parola sacrificio», pensava. «In nessuna delle mie abili risposte, dei miei delicati dinieghi, c'è mai un'allusione al fare un sacrificio. Sospetto che egli non sia realmente necessario alla mia felicità. Tanto meglio. Certo, io non mi persuaderò a sentir più di quel che sento. Sono abbastanza innamorata. Mi dispiacerebbe d'esserlo di più». In complesso, era ugualmente soddisfatta della sua idea dei sentimenti di lui. Lui certamente è molto innamorato, ogni cosa lo indica, anzi, innamoratissimo. E quando ritorna, se il suo affetto continua, devo stare in guardia per non incoraggiarlo. Sarei imperdonabile se facessi diversamente, poiché la mia decisione è ormai presa. Non che io possa immaginarmi di averlo incoraggiato finora. No, se egli avesse creduto che io condividevo i suoi sentimenti, non sarebbe stato così infelice. Se si fosse creduto incoraggiato, la sua aria e il suo linguaggio sarebbero stati diversi al momento della separazione. Pur tuttavia, devo stare in guardia, ben inteso supponendo che il suo attaccamento continui quello d'ora. Ma non so se m'aspetto che duri. Non considero che lui sia il tipo d'uomo, non faccio fondamento sulla sua fermezza o sulla sua costanza. I suoi sentimenti sono caldi, ma mi posso immaginare che siano molto mutevoli. Da qualunque parte io consideri la cosa, insomma, sono lieta che la mia felicità non ne sia implicata più profondamente. Starò benissimo dopo un po' di tempo, e allora sarà una soddisfazione che sia passata. Perché dicono che ognuno si innamora almeno una volta in vita sua, e io me la sarò cavata a buon mercato. Quando arrivò la lettera di lui a Mrs. Weston, fu data in lettura a Emma, ed essa la lesse con un grado di piacere ed ammirazione che a tutta prima le fecero scuotere il capo sulle proprie sensazioni e pensare d'averne sottovalutato la forza. Era una lettera lunga, ben scritta, che riferiva i particolari del suo viaggio e dei suoi sentimenti. Esprimeva tutto l'affetto, la gratitudine e il rispetto che era naturale e degno, e descriveva ogni circostanza esteriore e locale che poteva immaginarsi attraente, con vivacità e precisione. Nessuna fioritura sospetta di scuse o di ansie. Era il linguaggio di sentimento genuino verso Mrs. Weston. E la transizione da Highbury a Ashcombe, il contrasto tra i due posti circa alcuni dei primi vantaggi della vita sociale, era sufficientemente accennato per mostrare quanto fosse profondamente sentito. E quanto si sarebbe potuto dire di più non fosse stato per la remora della convenienza. Non mancava l'incanto del suo proprio nome. Miss Woodhouse appariva più di una volta, e mai senza una qualche associazione piacevole, sia un complimento al suo gusto, sia un ricordo di ciò che aveva detto. E l'ultima volta che il nome incontrò l'occhio di lei, pur disadorno com'era di sì vistosa ghirlanda di galanteria, essa poteva tuttavia discernere l'effetto della sua influenza e riconoscere forse il più gran complimento di tutti quelli tributati. Schiacciate nel più basso angolo libero erano queste parole. Non ebbi un momento libero martedì, come sapete, per la bella piccola amica di Miss Woodhouse. Vi prego di farle le mie scuse e i miei saluti. Questo, Emma non poteva dubitare, era tutto per lei. Harriet era ricordata solo perché era sua amica. La sua informazione e le sue prospettive circa Ashcombe non erano né peggiori né migliori di quelle che erano state previste. Mrs. Churchill stava migliorando, ed egli non osava ancora, neanche nell'immaginazione, fissare una data per un'altra visita a Randalls. Per lusinghiera e stimolante che fosse la lettera nella sua parte sostanziale, i suoi sentimenti, tuttavia, Emma sentì, quando fu ripiegata e restituita a Mrs. Weston, che non aveva aggiunto alcun durevole calore e che essa poteva ancora fare a meno dello scrivente e che lui doveva avvezzarsi a far senza di lei. Le sue proprie intenzioni rimanevano immutate. La sua risoluzione di rifiutare non fece che divenire più commovente con l'aggiunta d'un piano per la successiva consolazione e felicità del giovane. La sua menzione di Harriet e le parole in cui era espressa la bella piccola amica le suggerirono l'idea di vedere Harriet succederle nell'affetto di lui. Era possibile? No. Indubbiamente Harriet gli era di molto inferiore nell'intelletto, ma egli era rimasto assai colpito dalla vaghezza del suo volto e dalla calda semplicità dei suoi modi. E tutte le probabilità delle circostanze e dell'ambiente erano in suo favore. Per Harriet sarebbe stata davvero una cosa vantaggiosa e incantevole. «Non devo soffermarmici sopra», disse a sé medesima. «Non devo pensarci. Conosco il pericolo di abbandonarsi a tale riflessione, ma sono accadute cose anche più strane. e quando cesseremo di interessarci l'uno all'altro come avviene ora, sarà il mezzo per confermarci in quel genere di vera amicizia disinteressata di cui già posso pregustare il piacere. Era bene da avere qualche consolazione in riserva per Harriet, sebbene potesse essere prudente farvi indugiar di rado la fantasia, poiché da quella parte stava succedendo guai,